cuore e denari. I consigli della settimana. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò. E siamo all'ultima parte di Cuore Denari Weekend. Come sempre facciamo a quest'ora, entriamo in famiglia. Lo facciamo con il professor Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano, psicoterapeuta. Buongiorno Alberto e bentornato. Buongiorno Deborah, buona domenica a tutti. Alberto, oggi con te parliamo di lettura. Non andiamo alla Fiera dell'Est, ma andiamo virtualmente alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, che si è appena conclusa e che ha registrato un grande successo, come spesso capita, come sempre capita a queste manifestazioni. È un appuntamento che da oltre 50 anni riunisce chi si occupa di editoria per bambini e ragazzi ed è un'occasione per scambiarsi idee, per respirare le nuove tendenze. Alberto, prendiamo in prestito subito uno degli slogan della fiera: lettori si diventa, perché educare alla lettura è anche uno dei compiti che aspettano appunto ai genitori, anche alle zie se vogliamo, no? Perché sì, anche noi forse abbiamo un pochino questo compito e possiamo invogliare i bambini alla lettura. Anzi, le zie spesso sono quelle che regalano i libri più originali e più belli ai loro nipoti. Allora dopo ti chiederò un consiglio, intanto andiamo un po' così alla questione in termini generali. Ma rimane il dato di fatto che la lettura rimane da una parte un apprendimento, cioè bisogna imparare a leggere, dall'altra però è un grande divertimento che può trasformarsi anche in una passione nella vita di ciascuno di noi, e i primi anni di vita di un bambino sono davvero gli anni cruciali, cioè quelli in cui i genitori, gli adulti di riferimento, possono fare la differenza nel trasformare la lettura non solo in un percorso di apprendimento per il bambino, ma anche in un'attività molto divertente, molto normale. Tra l'altro la lettura è stata anche molto molto valorizzata in ambito pediatrico, c'è proprio tutto un movimento di pediatri che ha generato l'attività, l'iniziativa che si chiama Nati per Leggere, proprio convinti che fin dai 6 mesi, 7 mesi i bambini possono avere tra le mani un libro naturalmente adatto a loro, e che l'adulto che nella relazione con il bambino utilizza il libro un po' come giocattolo, un po' come strumento di relazione, regala al bambino in realtà un inizio meraviglioso nel mondo e nella passione della lettura che poi durerà tutta la vita. Alberto, sai che ogni tema che affrontiamo con te cerchiamo sempre di analizzarlo anche un po' dal punto di vista economico, d'altronde oggi hai a che fare esclusivamente con la donna di denari. Facciamo due conti e per fortuna sono conti positivi. In Italia il settore dell'editoria per ragazzi è tornato a crescere, va piuttosto bene. Guarda, per chi come me poi un po' anche con l'editoria lavora, perché scrive libri, quello di cui ci siamo resi conto noi autori è che gli ultimi 5-8 anni sono stati anni terribili, cioè si fa molto fatica a trovare un editore che è disposto a pubblicare magari anche un buon libro, perché il mercato fa veramente poi fatica ad assorbire l'offerta dei nuovi titoli. L'editoria per l'infanzia invece è un settore in controtendenza, tra le altre cose proprio l'anno scorso mi sono informato un po' e ho trovato che ha degli indicatori molto positivi, cioè la vendita di libri per bambini è salita del 3,1% nel 2013, quindi un settore decisamente in crescita, e tra le altre cose ci sono due sottogruppi di questo mercato che sono particolarmente attivi nell'acquisto di libri. Uno è proprio il settore dei piccolissimi, quelli di cui abbiamo appena parlato anche in relazione a Nati per Leggere, cioè i libri per bambini tra gli 0 e i 5 anni hanno avuto un trend in crescita quasi pari al 5%. E un altro settore molto bello e molto importante per chi per esempio lavora nell'educazione, un po' anche per chi fa il mio mestiere, è il gruppo dei preadolescenti. Tra i 10 e i 13 anni la vendita di libri in questo sottogruppo della popolazione in un solo anno è cresciuta del 13%. Insomma, delle cifre di tutto rispetto in una fase ancora che per l'economia generale diciamo non è propriamente del tutto felice. dice: Alberto, ammettiamo di avere davanti a noi bambini o ragazzi che hanno una passione e una discreta abilità anche alla lettura. Quali sono gli errori che commettiamo e che rischiano di compromettere anche queste attitudini che vediamo magari particolarmente sviluppate? Ma da una parte credo nelle nostre case noi abbiamo veramente troppi pochi libri. È abbastanza curioso entrare soprattutto nelle case più recenti, più moderne, quelle che magari hanno bambini ancora molto piccoli, e scoprire che magari la casa è invasa di tecnologie, di strumenti digitali, ma in giro non vedi neanche un libro. E quando dico presenza di libri non intendo solo libri per i bambini, cioè è proprio una funzione che viene un po' modellata, quella della passione per la lettura. Cioè noi dovremmo immaginarci come genitori una mamma e un papà seduti su un divano che si leggono il loro libro e un bambino magari sdraiato sul tappeto che sta sfogliando il suo libro. E riuscire a fare questa fotografia dentro una famiglia significa aver creato proprio una cornice relazionale che sostiene nel bambino la motivazione a toccare un libro, a sfogliare un libro, a giocare con un libro, che poi gli resterà anche poi nel tempo a venire. Mi è fatto venire in mente, mentre mi dicevi tutto questo, un'immagine di mia nipote, la seconda, a 3 anni, Gloria. Un giorno l'ho trovata spaparanzata sul divano con un libro aperto, tu puoi capire che cosa possa leggere lei, e guardava le immagini e mi ha detto ad un certo punto: zia, adesso io vedo che cosa posso leggere oggi. Mi ha fatto veramente impazzire, per cui speriamo che questa sia una manifestazione di attitudine che si possa ben sviluppare appunto con il tempo. Senti, prima ci raccontavi delle cifre dell'editoria per ragazzi, un mondo che naturalmente oggi è composto in larga parte anche da editoria digitale. Secondo l'indagine di Nati Digitali, sono proprio i libri digitali per piccoli a conquistare particolarmente le mamme italiane, che li scelgono per avvicinare i loro bambini alla lettura. Più di 3 su 10 mamme dicono sì a ebook e applicazioni per i bimbi. I libri cartacei sono destinati ai nostri ricordi, Alberto? Alberto, così dirompente ti abbiamo messo questo no di Vasco Rossi. Ma perché anch'io dico no, l'hai proprio scelta bene l'insert musicale. Io penso che i libri cartacei, soprattutto per l'età evolutiva, sono strumenti fondamentali perché obbligano il bambino a costruire l'esperienza, da una parte della relazione col libro e con la storia che c'è dentro, ma poi anche a costruire nella propria mente immagini, percorsi che con il libro digitale non sono così immediati o così facilitati. Non va dimenticato che l'editoria digitale ha creato dei libri che sono praticamente ormai quasi come dei piccoli parchi avventure, come dei film, cioè sono molto arricchiti di esperienze, per cui tu entri in una pagina, clicchi magari su un particolare, ti si apre uno spezzone di video, eccetera. Quindi questo arricchimento in realtà per il bambino è di grande intrattenimento e divertimento, certo, però allo stesso tempo impoverisce un'operazione mentale fondamentale, cioè tradurre le parole di un libro in immagini mentali, che è un lavoro di costruzione, certo, che il bambino deve imparare a fare, che se trova tutto già completamente fatto dentro un libro digitale, per esempio, inibisce in parte la potenzialità e la ricchezza dell'esperienza educativa e formativa che il libro cartaceo gli offre. Quindi insomma invitiamo mamme e papà ad una riflessione su questi aspetti, invece andiamo noi ad una riflessione e a qualche consiglio di lettura, come sempre ci dai al termine di ogni puntata, Alberto. Cosa ci consigli di leggere questa settimana che sia attinente ovviamente al tema che abbiamo trattato oggi? Ma io ho scelto proprio dei libri che in qualche modo ci aiutano nella vita. Il primo è un libro di biblioterapia, si intitola Curarsi con i libri, rimedi letterari per ogni malanno, è edito da Sellerio Editore, l'edizione italiana è stata curata da Fabio Stassi ed è una magnifica collezione di libri che possono servire a curare ogni nostro disturbo, fondamentalmente proprio un piccolo vocabolario dove tu, in base al problema che hai, ti scegli il libro che ti aiuterà a curare proprio quel problema. Per i più giovani invece che cosa abbiamo nella nostra libreria? Per i più giovani invece il libro Un anno nella giungla di Susan Collins è pubblicato da Mondadori Editore, è un libro molto particolare perché racconta la fatica emotiva di una bambina che vede il suo papà partire per un conflitto armato e quindi deve stare a casa molto a lungo ad aspettarlo, ed è un libro però che ci dice quanto mettere in mano buoni libri ai nostri figli può anche aiutarli a superare alcune fatiche emotive, alcuni disagi che nella vita potrebbero verificarsi. Questo è un libro che ha dentro la tristezza, ma anche la possibilità di uscire dalla tristezza, e in questo senso molto terapeutico. Alberto, grazie molte per i tuoi suggerimenti. Per quello che mi riguarda, io andrò sulle favole tradizionali e farò la zia tradizionale leggendo appunto ai miei piccoli le favole, appunto, che sono le più note. Forse anche questo c'è bisogno un pochino di fare, che ne dici? Magari in 5 secondi una battuta. Assolutamente, le favole entrano sempre poi nelle nostre emozioni più vere e più profonde. Grazie ad Alberto Pellai per essere stato con noi. Buon proseguimento di domenica, Alberto. Buona domenica anche a voi, grazie. E noi naturalmente con Cuore Denari, io e Nicoletta, ci ritroviamo qua a Radio 24 alle 11, e buon weekend a tutti.